Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, qualche settimana fa abbiamo visto, o meglio sentito, come preparare una gara di 10 km. Oggi invece raddoppiamo la distanza e parliamo di mezza maratona. E lo facciamo con la nutrizionista Francesca De Rio, bentornata. Ciao, buongiorno a tutti. E il nostro coach preferito Fabio Vedana. Grazie, buongiorno a tutti. Preferito. Allora, se dai numeri raccolti annualmente dal mensile Correre, come abbiamo visto qualche settimana fa, sappiamo che i maratoneti italiani sono circa 40.000 all'anno, altre stime parlano addirittura di 300.000 mezzi maratoneti italiani che ogni anno mettono in calendario almeno una gara di 21 km. Fabio, quindi qui siamo allo step successivo. Abbiamo iniziato a correre, ci siamo messi in gioco con una gara di 10 km, come abbiamo visto qualche settimana fa, e abbiamo sentito il richiamo di una sfida che ci porterà probabilmente un po' più lontano della precedente. Cosa cambia? Beh, cambia che raddoppiamo e aggiungiamo anche un chilometro e 0,95 metri, e quindi dobbiamo assolutamente ampliare le nostre capacità di endurance, migliorare la nostra resistenza muscolare e anche lavorare un attimino sull'approccio mentale, perché comunque vado a raddoppiare il tempo di gara. E quindi sono questi gli aspetti su cui devo andare ad agire durante la preparazione. Rispetto alla sfida più ardua, che è quella della maratona, sicuramente la mezza maratona è considerata, per quelli invece che hanno già un po' più di dimestichezza con la corsa, quindi gli amatori che sono già un po' più di livello, è una specie di 10.000 allungato. E quindi anche le intensità sono decisamente alte, quelle che si riescono a tenere in una mezza maratona, anche perché appunto riusciamo ad andare proprio al limite dell'utilizzo dei substrati energetici a base degli zuccheri, e quindi riusciamo a fare una prestazione di una certa intensità. Quello che diciamo poi sempre fa la frontiera invece quando vado ad approcciarmi alla maratona, che non è due mezze maratone ma è un po' di più, è un po' come con l'Ironman, che non è l'Ironman, non è due mezzi Ironman insieme, ma è di più, proprio per questo aspetto legato alla capacità di utilizzare i substrati energetici a base lipidica piuttosto che glucidica. Quindi per chi approccia il primo 21 e viene da una 10.000, sicuramente è un passo adeguato, se naturalmente ho rispettato quei tre principi, quindi lavorare sull'endurance, lavorare sulla forza, lavorare sull'aspetto mentale. Che poi lo vedremo. Francesca, rispetto alla preparazione di una gara di 10 km, abbiamo visto che un po' di cose cambiano, no? Tipo l'alimentazione. Beh, sicuramente l'alimentazione di base rimane sempre il concetto fondamentale, è sempre quello, no? Quindi l'alimentazione ha lo scopo principale di fornire energia adeguata, idratazione, favorire il recupero e proteggere anche il sistema immunitario, e serve anche per la prevenzione degli infortuni. Ovviamente, diciamo che se parliamo di apporti glucidici durante la corsa, ovviamente questo cambia a seconda anche della durata e dell'intensità della corsa stessa. E qui dobbiamo fare anche un'ampia distinzione tra chi corre una mezza maratona in un'ora, un'ora e dieci, chi invece corre in due ore e mezzo, no? Quindi è ovvio che l'intensità sarà diversa, però lo sforzo fisico è sempre molto, molto soggettivo. Quindi non possiamo dire devi assumere tot gel, eccetera, perché è molto variabile. E c'è sicuramente un grandissimo numero di atleti che fa tranquillamente, anche tu Ivana, una mezza maratona senza assumere nessun integratore durante. Quindi è anche una questione di allenamento e di adattamento. Ma forse più per il pre-gara, che bisogna stare attenti magari, non so, a fibre, latticini. Sì, ecco, sicuramente si è più esposti a un rischio, diciamo, di avere fastidi gastrointestinali, e quindi magari si possono attuare dei piccoli accorgimenti che riguardano la settimana, comunque i giorni prima della gara, della competizione, e anche appunto il pasto immediatamente prima. Quindi sicuramente una riduzione di alcuni cibi che possono irritare, come la fibra piuttosto che i latticini, ovviamente gli alcolici e tutto ciò che magari può essere indigesto, i fritti, eccetera. E Fabio, anche in questo caso, come ci ripeti spesso, fare sempre lo stesso allenamento porterà lo stesso risultato. Come dobbiamo strutturare la nostra settimana di allenamento per una mezza maratona? Beh, rispetto alla 10.000 di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, devo un pochino aumentare il volume, il volume proprio della settimana, e quindi devo crescere un attimo di chilometri o comunque di ore di allenamento, e poi devo aggiungere un po' più di allenamenti di qualità, ma come qualità intendo proprio lavori sulla potenza aerobica, quindi aggiungere dei lavori come i 1000, i 1500 metri a un'intensità vicina a quella della soglia anaerobica. Proprio quella perché che chiamiamo ripetute, diciamo. Sì, secondo me è proprio un lavoro cardine della preparazione della mezza maratona, sono i lavori sulla potenza aerobica, proprio perché si riesce a correre questa gara al limite della potenza aerobica, quindi nella zona mista tra la zona della soglia aerobica e della soglia anaerobica, e quindi è importante fare questi lavori. Li vogliamo ricordare, tipo i 1000, 1500 metri, anche i 2000 metri, con, partendo da un volume intorno ai 5 km totale, fino ad arrivare anche a fare volume intorno ai 10 km di ripetute, è già un bello stimolo. E naturalmente vanno posizionati da 8-10 settimane prima della maratona, fino ad arrivare a un paio di settimane. Ecco, anche il tapering non è assolutamente assimilabile a quello della maratona. Quando parliamo del tapering, diciamo, quello che ci porta, diciamo, alla maratona, l'ultima settimana, insomma. Ho usato quelle un che, diciamo, termine scarico. Troppo tecnico. Il tapering è la diminuzione, no? Ecco, quando tu fai una settimana, 7-8 giorni di diminuzione del volume, mantenendo anche dei richiami di intensità, sei sicuro di arrivare alla gara con l'aspetto più importante, che è la freschezza. No? È fondamentale, se io arrivo alla gara, l'abbiamo detto tante volte, alla gara obiettivo devo arrivare con un ottimo livello di fitness, quindi devo aver condizionato il mio corpo, ma devo avere un livello energetico, sia fisico che mentale, alto. E per fare questo devo riposare, devo dedicare molto tempo al riposo negli ultimi giorni. Naturalmente, come diciamo sempre, più la gara è lunga, più la diminuzione deve essere grande, quindi più il tapering, lo scarico è grande. Su una mezza maratona bastano appunto 6, 7, 8 giorni, non serve di più. Mantenendo sempre un richiamo di intensità, proprio perché l'intensità è una caratteristica, è una cifra importante di questo tipo di competizione, perché, come ho detto all'inizio, è una specie di 10.000 prolungato. Ecco. Quindi abbiamo parlato un po' di ripetute, poi dobbiamo considerare anche magari di allungare un po' le distanze, forse nel weekend, no? Come facciamo per la maratona. Sì, esatto, ma non serve fare i lunghi da 3 ore o da 2 ore e mezza come nella maratona, serve fare più o meno un lungo che sia centrato su quello che è la nostra ipotesi di tempo obiettivo. Quindi se ho nel mio mirino di fare 1 ora e mezza, 1 ora e 45 nella mezza maratona, i lunghi saranno di conseguenza vicini e si avvicineranno a questa distanza. Francesca, quindi è tempo di gare, no? Però manca anche un mese circa la primavera. Tu consigli comunque un'integrazione con delle vitamine per aiutarci un po', insomma, a tu dici a per combattere l'affaticamento del cambio di stagione? Sì, anche quello. Anche quello. Dunque, io tendenzialmente, diciamo, evito di consigliare a tutti un'integrazione vitaminica generale, anche perché non credo molto nell'integratore multivitaminico che contiene un po' di tutto. Invece magari è più utile andare a utilizzare diciamo degli integratori più specifici, quindi magari determinati tipi di vitamine a un dosaggio più alto che possono essere utili, per esempio per gli sportivi, per chi fa attività fisica ad alta intensità può essere utile magari l'utilizzo di un integratore di vitamina C, che è un forte antiossidante che aiuta non solo nei mesi invernali, anche nel cambio di stagione, e soprattutto è utile a combattere appunto lo stress ossidativo, diciamo, che viene determinato da questo allenamento intenso o comunque frequente. E in generale alla base comunque deve esserci sempre l'alimentazione, quindi l'apporto di micronutrienti o nutrienti che derivano da alimenti freschi, da un'ampia varietà di alimenti freschi, quindi diciamo che ricorrere all'utilizzo di integratori quando l'alimentazione di base è sbagliata o è carente non ha alcun senso, anche perché ciò che troviamo negli alimenti è sicuramente meglio, no? È più attivo. Certo. Fabio, come abbiamo già detto anche altre volte, tornando un po' a prima, stiamo pianificando come quando pianifichiamo, diciamo, una maratona. Sappiamo che dividiamo la preparazione per la maratona in 3 parti, no? Abbiamo parlato prima dello scarico, immagino ci siano altre 2 parti di cui parliamo spesso. Che sono le due fondamenta, no? La parte fondamentale generale e la parte poi specifica e specialistica. E se lavoriamo sempre sulle 12-10 settimane... Questo è già un dato, diciamo. Sì, secondo me è il tempo giusto per potersi allenare correttamente, per arrivare alla gara e fare il proprio personal best, o comunque arrivare a finire la prima mezza maratona con delle buone sensazioni. Questo è un po' naturalmente prima dovevamo aver fatto il 10.000, non è che cominciamo a correre in 12 settimane e arriviamo a fare la mezza maratona al nostro meglio. E quindi se lo dividiamo sulle 12 settimane, dedichiamo almeno le prime 3-4 settimane su un lavoro generale di base, quindi dove tendiamo ad aumentare il volume, tendiamo a aumentare il tempo che rimaniamo sulle gambe, facciamo dei lavori sulla forza, quindi con delle salite, con dei fartlek o dei vallonati. E poi invece nella fase più specifica, quindi che può essere lunga dalle 2 alle 3 settimane, spingiamo sulla potenza aerobica, quindi spingiamo sulle ripetute, quindi a intensità vicino alla soglia, con i volumi che abbiamo detto, e magari cominciamo anche a mettere dentro invece dei progressivi che si avvicinino, partendo da intensità abbastanza bassa, quindi intensità intorno alla zona di soglia aerobica, si spingono in modo tale da poi concludere con gli ultimi 10-15 minuti a un'intensità vicina a quella di gara e anche superiore a quella di gara, proprio perché comunque la differenza nel tempo in una prestazione come la mezza maratona proprio è la capacità di tenere la velocità di potenza aerobica elevata per tanto tempo, e quindi devo farmi la fatica mia amica, perché questo è uno degli elementi fondamentali per poter fare un buon crono, è riuscire a mantenere alti livelli di fatica. Quindi da una parte con la potenza aerobica consolido e faccio degli adattamenti importanti per quanto riguarda la mia parte proprio metabolica, dall'altro faccio un lavoro mentale per abituarmi a mantenere la concentrazione alta, il livello di fatica e di sopportazione della fatica alto, e quindi questo solitamente si sviluppa appunto con i progressivi. E quindi è un po' anche quello che cambia rispetto a un 10 km, no? Questo rapporto con la fatica. Sì, perché il 10.000 è un attimo più veloce. Cioè è una fatica diversa. Sì, è una fatica diversa. Io li odio. Odi la mezza maratona? No, i 10 km, perché sono troppo intensi e troppo corti. Sì, perché si corre molto, per buona parte sopra la soglia anaerobica, mentre qua, come ho detto, stai a quell'intensità lì. E per cui naturalmente questo vale per chi corre 1:45, per chi corre 2:30, invece quasi è una prova dove devo lavorare di più anche sui lipidi. E invece ricordo che i migliori specialisti stanno vicino all'ora, quindi è proprio una prova di un altro tipo dal punto di vista metabolico, cioè il record mondiale è sotto l'ora. Certo. Fabio, c'è un ascoltatore che ci scrive: è possibile sostituire un lavoro di qualità con una corsa sempre alla stessa andatura ma svolta in salita? Allora, la corsa in salita funziona perché ha un duplice valenza, sia quella che stimola sia la parte metabolica che la parte muscolare, perché correndo in salita accentuo il discorso di reclutamento muscolare, di tensione muscolare. E poi c'è anche un fatto mentale, perché comunque corro in salita aumentando l'intensità, diminuendo il ritorno elastico, perché quando corro in salita diminuisco il ritorno elastico, ho anche questo vantaggio di migliorare le mie capacità di concentrazione, di fare la fatica, di farla diventare più mia amica, e quindi sicuramente è un lavoro con questa finalità. Però se poi voglio trasformarlo in velocità, e siccome le mezze maratone sono sempre con dislivello zero, devo per forza fare un lavoro su l'aspetto elastico, perché altrimenti rischio di fare la classica corsa solo di forza, che vuol dire quindi sto un po' più basso, un po' più seduto, lavoro solo di cosce, che è tipica della corsa del triatleta che viene dal ciclismo, perché non usa i piedi, quindi non usa tutto il recupero di energia elastica, tipico invece di chi fa della corsa proprio la propria disciplina di elezione. Ma anche i nuotatori però corrono. Nuotatori anche loro sono quando c'è da prendere in giro i triatleti, perché Fabio perché il nuotatore non è capace proprio di usare gli arti inferiori in carico, perché lui li usa sempre in scarico, perché è in orizzontale, quindi il problema dei nuotatori quando si approcciano al percorso del triathlon è proprio quello che i muscoli non sono preparati ad avere quel tipo di sollecitazione, ma neanche le ossa. Infatti gli infortuni sia muscolari che tendini e ossi sono all'ordine del giorno con chi dal nuoto comincia il triathlon o comincia a correre. Magari ha una buona capacità generale, quindi un buon condizionamento cardiorespiratorio, cardiocircolatorio, ma non ha assolutamente un condizionamento periferico, per cui deve avere pazienza, perché altrimenti la pazienza gli arriva perché un bel infortunio lo mette sul divano. Francesca, Luca, un nostro ascoltatore, ci scrive: che cosa pensa Francesca della pasta zero calorie? Per chi deve perdere peso, ovviamente. Sì, specifichiamo qual è questa pasta a zero calorie che ce l'hai scritto lì tra parentesi e non lo sai pronunciare. Non lo so pronunciare, no, non è vero. Konjac. Sì, esatto. Ah, vedi. È una, infatti, perché non è proprio pasta in realtà, è un alimento che viene, diciamo, costruito, quindi gli viene data anche una forma di pasta, che può essere una pasta lunga o una pasta corta. Viene per questo motivo chiamato pasta, ma non è assolutamente a base di farina, quindi non deriva da un cereale come il frumento. È una fibra e viene molto utilizzata da chi segue una dieta a basso, bassissimo contenuto di carboidrati, come una dieta chetogenica, per esempio, finalizzata al dimagrimento, quindi spesso si usa in caso di obesità. Quindi cosa ne penso? Io l'ho assaggiata e il sapore non è assolutamente paragonabile a quello di un piatto di pasta, io ve lo dico, quindi l'ho assaggiata perché assaggio tutto, ovviamente il valore energetico non è quello, quindi per chi la volesse utilizzare come se fosse una pasta deve sapere che né, diciamo, il sapore né diciamo il potere energetico, non parliamo tanto di calorie ma proprio di specifici nutrienti, non è comparabile. Dopodiché, perché viene utilizzata? Perché essendo una fibra sazia, quindi si gonfia, no? Nello stomaco, riempie, così come la verdura. E diciamo che in chi vuole eliminare la pasta o ridurre i carboidrati può essere utile per questo motivo, quindi dà un po' la sensazione, appaga lo sguardo perché sembra di avere magari un piatto di pasta, però è assolutamente un altro alimento, quindi non lo chiamerei pasta, ecco. Fabio, noi per oggi ci fermiamo qui, grazie per i tuoi consigli, a presto. Grazie a voi e spero di rivedervi presto e di vedervi prossimi al vostro personal best. Vale soprattutto per te, grazie. Silvio. Grazie. E grazie alla nutrizionista Francesca De Riu. Grazie a voi, alla prossima, buona giornata. E anche per oggi il tempo è scaduto, ma prima di chiudere abbiamo una domanda per i nostri ascoltatori. Chi era l'ospite di Personal Best di domenica scorsa? Scriveteci la risposta all'indirizzo mail personalbest@radio24.it. I primi 4 ascoltatori che risponderanno correttamente si aggiudicheranno un pettorale per partecipare alla 10ª edizione della Jesolo Moonlight Half Marathon in programma sabato 16 maggio, una bellissima mezza maratona serale con partenza alle 19.30 da Piazza Milano a Jesolo Lido. E per oggi quindi è veramente tutto, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30 e alle 16.15, poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.